Se io fossi fuoco, arderei lo mondo. Se io fossi vento, lo tempesterei. Se io fossi acqua, io l'annegherei. Se io fossi Dio, manderei lo in profondo. Se io fossi Papa, starei allor giocondo che tutti i cristian tribolerei. Se io fossi imperador, sa che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo. Se io fossi morte, andarei da mio padre. Se io fossi vita, fuggirei da lui. Similemente faria de mi madre. Se io fossi cecco, quale sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei le altrui.